Consentitemi di settare un attimo la nostra connessione. Userò questo telecomando. Bene. Allora, benvenuti a questa nuova lezione di jazz, una guida all'ascolto che oggi ci racconterà, sfidando le avversità del blocco del traffico, anzi questo Moloch che avete comunque superato e vinto per venire a sentire questa lezione, dell'incontro che noi oggi diamo per scontato, il fatto che all'interno del jazz ci sia un... è rimasta qui, questa cosa brutta, vabbè la togliamo. Ci sia all'interno del jazz, ci siano elementi del linguaggio musicale afrocubano, percussioni per esempio, oggi è consuetudine andare ad un concerto di jazz e trovare maracas, congas, timbales, ascoltare una mescolanza tra jazz e musica cubana. Quando è accaduto questo e che difficoltà hanno incontrato questi linguaggi che oggi sembrano perfettamente compatibili? In realtà tutto questo ha una storia molto particolare, direi anche molto affascinante, con delle biografie piuttosto curiose. La prima cosa è che dobbiamo ricordarci questo, che la tradizione musicale del jazz e la tradizione musicale cubana hanno in realtà origini molto diverse e sono tutt'altro che compatibili. C'è una, diciamo così, una... scusate, vedo che non riesco a farlo funzionare, ci riprovo. No, volevo fare il figo con il telecomando così tecnologico. Ah no, ecco perché ho sbagliato, scusate, ho sbagliato io. Eccolo qui, scusate. Ecco, visto. Fatto il figo, grazie. Questa mappa l'abbiamo già vista lo scorso... è pazzesco, ricevo l'applauso non per quello che dico, ma per gli errori. Non è molto incoraggiante. Allora, questa mappa l'abbiamo già vista per chi, per i famosi fondamentalisti delle lezioni di jazz che vengono regolarmente, l'abbiamo già vista in una precedente lezione parlando delle origini del jazz. È una mappa che riassume quelle che sono migrazioni forzate, il rapimento e la messa in schiavitù di milioni di individui tra il XVI e il XIX secolo dall'Africa verso le coste atlantiche del continente americano. Quello che questa mappa non ci dice, che a noi qui adesso interessa, è che grosso modo l'esportazione di schiavi, il rapimento di schiavi è avvenuto da nord verso sud, cioè i primi schiavi venivano dall'area del Senegambia e via via gli schiavisti si sono spostati verso sud, e come vedete nel culmine della tratta, cioè fra il XVII e il XVIII secolo, nel corso del Settecento soprattutto, gran parte degli schiavi veniva da quell'area che oggi corrisponde grosso modo all'Angola. Questo aspetto è molto importante perché si tratta di culture musicali, linguistiche e musicali molto diverse. In particolare questa mappa che ci mostra le lingue africane, dovete pensare che nell'area appunto del Senegal, vedete sotto la Mauritania, lì dove la mappa diventa arancione, ci sono tradizioni musicali che poi sono legate a quello che è diventato ad esempio il blues, quindi tradizioni musicali come quelle che troviamo anche nel Mali, che però vedete è in verde e quindi è un'area con le lingue afroasiatiche, nel Niger, nella Mauritania, dove troviamo cordofoni, un modo di cantare a gorgheggio, una scarsa presenza del coro. Sono tutti elementi che poi si trovano nella musica nordamericana. E soprattutto c'è un atteggiamento ritmico che è più simile a quello che noi chiamiamo oggi lo swing. Lo swing in fondo è legato a questa idea che c'è una nota un po' più lunga e una nota un po' più breve. Ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta. Oppure quando si fraseggia. Ti, da, di, da, di, da, di, da, lunga, lunga, corta, ti, ta, ti, ta, ti. Questo tipo di atteggiamento elastico, continuamente variabile, ha proprio origine tra le aree verdi e le prime aree arancione che vedete in questa mappa. Invece tutta l'area dell'Angola che vedete, l'ex Zaire, Gabon, Congo, Angola, Zambia, eccetera, è legata invece ad una concezione fortemente percussiva della musica. Gli ensemble di tamburi, i grandi strumenti a percussione, e ad una concezione del ritmo invece metronomica, cioè dove abbiamo dei ritmi scanditi in maniera molto precisa, anche perché questi ritmi si incastrano fra di loro, sono tamburi, campanacci e voci che si incastrano una sopra l'altra. Allora, se io ho una concezione piuttosto libera del tempo, incastrare le parti diventa molto più difficile. Quindi sto ipersemplificando, però per capirci, nelle aree dell'Africa nord-occidentale troviamo una concezione del tempo spesso, non sempre, spesso più elastica, nelle aree dell'Africa centro e sud occidentale troviamo invece una concezione più rigida. Ora, gran parte degli schiavi che poi sono arrivati a Cuba, piuttosto che negli Stati Uniti, vengono proprio dalle aree centro e sud occidentali, cioè hanno portato questa concezione rigida, marcata del ritmo, che è molto diversa da quella che invece si è affermata negli Stati Uniti. Esiste realmente una incompatibilità, cioè mettete un chitarrista blues sotto delle percussioni afro-cubane e i due mondi letteralmente non si sposano, non funzionano, non dialogano. È vero che il jazz poi ha, non tanto il jazz, una certa area musicale ha vissuto la fusione di questi due mondi. In particolare la città di New Orleans, questa è un'altra mappa che abbiamo già visto in una passata lezione, io piuttosto che fare il riassunto dovrei interrogarvi in realtà, però vabbè, anche per fare prima, ma scremare un po' il pubblico, diciamo così. Ma in realtà New Orleans, come si vede da questa mappa che adesso nella quale non entro nel dettaglio perché l'abbiamo già discussa in una precedente lezione, New Orleans è stata al centro di flussi migratori. A noi qui oggi interessa quella freccia che vedete che da Haiti va verso Cuba e risale verso New Orleans, un flusso migratorio di francesi e schiavi e poi spagnoli, Haiti era francese, Cuba era spagnola, che poi sono migrati verso New Orleans, che era stata fondata dai francesi, è stata a lungo governata dagli spagnoli e solo più tardi è diventata statunitense. Questo vuol dire che per esempio a New Orleans la presenza di haitiani, di una cultura cattolica, di una cultura come quella cubana o haitiana del tamburo, insieme a quella invece del banjo, della chitarra, del blues, del gorgheggio, era estremamente importante. New Orleans è il luogo in cui quei due mondi in qualche modo si incontrano, quello dei ritmi regolari del tamburo e quello invece dei ritmi swing oscillanti dell'Africa nord-occidentale. Tra l'altro, proprio da Haiti veniva la nonna di un personaggio fondamentale nella storia del jazz. Questo personaggio fondamentale nella storia del jazz si chiama Ferdinand Lamothe, che aveva come compagna Bessie Johnson. Abbiamo già visto anche questa foto, vedete che tendo un po' così a appoggiarmi sulle cose che ho già fatto, l'abbiamo vista nella scorsa lezione se non ricordo male, quando abbiamo parlato del passing, perché dietro questi due nomi in realtà ci sono altri due nomi che sono Jelly Roll Morton e Anita Gonzalez. Abbiamo spiegato nella scorsa lezione che Bessie Johnson, avendo la pelle chiara, si faceva passare per messicana e in questo modo sfuggiva alle leggi razziali. Il creolo di origine haitiana Ferdinand Lamothe si fece invece chiamare Jelly Roll Morton. Morton, che è stato il primo vero grande intellettuale del jazz, colui che ha riflettuto sulla natura del linguaggio e ci ha raccontato, in particolare in una lunga intervista del 1938 fatta da Alan Lomax per la Library of Congress, ci ha raccontato come funziona il jazz, che cos'è, come è nato e come funziona. Morton, durante questa intervista, sostiene una cosa importantissima. Dice: uno degli ingredienti fondamentali del jazz è quello che lui chiama lo Spanish tinge, cioè la tinta ispanica, il colore spagnolo. Lui in realtà non si riferisce alla Spagna geografica e politica che conosciamo oggi, europea, ma si riferisce invece a un complesso culturale caraibico, cattolico, diciamo in linea di massima, quindi haitiano, francese e cubano, spagnolo o portoricano, la cui musica è un ingrediente fondamentale nel jazz di New Orleans, in virtù di quella mappa che abbiamo visto prima dei flussi migratori che arrivavano dai Caraibi. Cioè Morton ci sta dicendo che il jazz sì è swing, il jazz è improvvisazione, il jazz è un certo tipo di repertorio, è un certo tipo di fraseggio, ma se non c'è la tinta ispanica, fosse anche solo per un dettaglio, per un piccolo passaggio, questo, il jazz non è veramente tale. La ricchezza culturale di questa musica implica anche un elemento caraibico. Questo elemento caraibico è centrale in tanta musica di Morton e c'è un pezzo che vorrei farvi sentire in particolare, che è un ragtime, che però è letteralmente intriso in ogni piega di musica caraibica. Anzi, diciamoci la verità, sembra una danza cubana. Questo pezzo è dedicato alla sua compagna Anita Gonzalez e si chiama appunto Mama Anita. È stato, lo sentiamo in una registrazione del 1924, lo stesso Morton al pianoforte. Il suono è un po' vecchio, è un po' malandato, ma fate molta attenzione a quanto sia cubano questo pezzo di jazz. Possiamo alzare un po' il volume, grazie. Un'abilità diabolica nel riuscire a passare continuamente nel giro di poche note da un fraseggio con questo ritmo cubano a un fraseggio invece che invece è lunga, corta, tipico dello swing. A volte riesce perfino a sovrapporli e si sente che ha una familiarità, una padronanza di tutte e due i linguaggi, quello statunitense, nuovo del jazz, di cui lui è uno dei creatori, e quello della musica cubana, che evidentemente praticava in maniera continua, al punto da riuscire genialmente, e probabilmente è stato uno dei primissimi a fare questo, a, se non il primo, a mescolare questi due linguaggi apparentemente incompatibili. Ora, in realtà nel repertorio di quegli anni ci sono molti altri esempi, per esempio uno dei primi blues stampati, St. Louis Blues, famosissimo, si apre con un'introduzione sul ritmo di tango. E c'ha poi un vero e proprio tema di tango. Ci sono esempi di ragtime con lo Spanish Tinge, come i ragtime di Artie Matthews, ma a noi qui interessa capire se e come questo elemento caraibico si è sviluppato dentro la musica statunitense nel corso degli anni 20 e 30. La verità è che nel corso degli anni 20 e 30 ci sono state varie ondate, diciamo così, di interesse del pubblico verso la musica latinoamericana. Pensiamo per esempio negli anni 30 alla moda della rumba, che diventa una vera e propria moda anche per il pubblico bianco statunitense, ma qui non ce ne occupiamo perché c'è un problema di fondo, e cioè che anche se il pubblico statunitense va a ballare la rumba nelle sale da ballo, stiamo parlando comunque di rumba, cioè non di una fusione del jazz o della musica popolare americana con i ritmi e le danze caraibiche. Stiamo parlando di invece andare a danzare quella danza caraibica, non di una unione dei due linguaggi. D'altra parte è anche vero che ci sono molti musicisti portoricani, cubani, haitiani più raro, che si trasferiscono a New York e suonano in locali e sale da ballo per il pubblico soprattutto di New York, perché capite che New York, questa storia riguarda molto meno Los Angeles, per non parlare della sterminata provincia americana, che ne so, Pittsburgh o Detroit o Austin nel Texas, non c'entrano niente queste città, è New York l'epicentro, perché sta da un lato dalla parte giusta, diciamo così, del continente americano, più vicina ai Caraibi, e poi perché è il centro della produzione musicale negli Stati Uniti. Quindi musicisti che per esempio migravano da Porto Rico o da Cuba miravano poi ad andare chiaramente a New York, dove trovavano delle comunità nelle quali erano accolti e nelle quali suonavano. Per cui voi potevate andare a sentire la musica cubana a New York, nel quartiere dei cubani, in un locale dove si faceva musica cubana e dove ascoltavate musicisti cubani che suonavano musica cubana. Difficilmente, se non in occasioni più rare, capitava che un musicista statunitense suonasse con i cubani, perché era un altro linguaggio, un'altra musica. È come se un musicista classico dovesse suonare il jazz o viceversa, implicava una specializzazione totalmente diversa. Queste cose cominciano a cambiare nel corso degli anni 30, la possibilità di musicisti statunitensi e cubani di suonare insieme e di scoprire l'uno il linguaggio dell'altro nel corso degli anni 30, e il nostro uomo chiave è Mario Bauzà, nato a La Habana nel 1911, morto molti anni dopo per fortuna a New York nel 1993, trombettista, compositore, arrangiatore. È uno degli eroi della nostra storia. Voi direte, chi l'ha mai sentito nominare? E in realtà oggi parleremo di diversi musicisti che noi conosciamo poco e che in realtà hanno veramente cambiato la storia, non del jazz, perché qui parliamo di qualcosa di molto più ampio, la storia della musica del Novecento. Mario Bauzà era un trombettista che si era trasferito da Cuba a New York ed era entrato nell'orchestra di Chick Webb. E suonando swing aveva pian piano imparato a capire come funzionava il fraseggio del jazz, e al tempo stesso conservava, come posso dire, la capacità di suonare musica cubana, ed è stato lui proprio uno dei musicisti che è andato dai musicisti americani a spiegare come funzionavano i ritmi della musica cubana. Torneremo su Bauzà, che è una figura importantissima, però il successo di Bauzà spinse poi altri musicisti cubani a trasferirsi negli Stati Uniti. Uno di questi è Francisco Grillo, che era nato in realtà in Florida e poi è morto a New York, 1908-1984, e detto Macito, che è uno dei musicisti chiave della nostra storia. Qual è l'idea di Francisco Grillo, detto Macito, meglio, ormai tutti lo conoscono come Macito? L'idea è questa, è di provare con l'aiuto di Bauzà, che suona nella sua orchestra, a mescolare i colori della big band americana con le percussioni afrocubane. In particolare Macito fa una cosa che si vede in questa foto, l'ho scelta apposta. Macito poi cantava, ma era soprattutto un band leader. Lui mette insieme per il pubblico statunitense e per gli immigrati caraibici a New York strumenti a percussione come le maracas che lui ha in mano, le timbales che vedete a sinistra o la conga che vedete a destra, che nella musica cubana appartengono a generi e danze differenti. Cioè nelle orchestre cubane tradizionali c'erano le orchestre con la conga, le orchestre con le maracas, le orchestre con i timbales, che erano legati appunto a tradizioni, danze, anche riti religiosi differenti. Macito è il primo a mettere insieme tutte queste cose. Se voi pensate quanto è comune oggi vedere anche nella musica cubana gruppi di salsa, per esempio, che hanno maracas, timbales, congas, ecco, pensate che è stato Macito a avere questa idea di rompere i confini fra i generi e accorpare tutte le percussioni. Un altro personaggio chiave è il cantante Miguelito Valdés. Da dove esce Miguelito Valdés? Dovete immaginare che questi musicisti cubani, man mano che arrivavano a New York, come Macito, e avevano fama, fortuna, e cominciavano a fare soldi, chiamavano i loro amici da La Habana, per esempio, e dicevano: venite a New York perché qui c'è un pubblico, qui si lavora. Stiamo parlando della fine degli anni 30, primi anni 40. Valdés era un ex pugile, come vedete anche dalla... insomma era un tipo piuttosto robusto, che aveva scoperto di essere anche un buon cantante e suonatore, come vedete, a tracolla di conga, e con Macito nel 1942 registra negli Stati Uniti un disco clamoroso che si chiama Tabù. Questo disco clamoroso è, allora, anzitutto un disco di musica cubana, con però delle parti orchestrali che ricordano il jazz. Vi ricordo che dentro questa orchestra c'è anche Mario Bauzà, cioè quello che stava facendo da trade union fra il jazz e la musica cubana. Ma la cosa straordinaria è che in Tabù Miguelito Valdés fa anche i nomi delle divinità della santeria, degli orishas, cioè di queste divinità che vengono da religioni della Nigeria, Yoruba in particolare, che avevano avuto un ulteriore sviluppo nella musica sacra afro-cubana e che erano state portate anche a New York. È come dire, come se noi oggi ci trovassimo, e oggi lo possiamo capire ancora meglio, davanti a qualche africano che celebra delle divinità in una lingua che non comprendiamo, e divinità che hanno un significato, un ruolo che non comprendiamo e che diventano musica. Ecco, Miguelito Valdés con l'orchestra di Macito canta in Tabù le divinità della cultura religiosa afro-cubana, della santeria, che sono un mistero totale per il pubblico statunitense. Metronomico regolare. Chango è un altro delle divinità evocate. Oh, Django, Ije Baja, Ochu, Ochu, Ipa, Ipa, O Vatala, Django, Ije Baja. Disco registrato negli Stati Uniti, tra l'altro alcuni di questi dischi erano cantati in spagnolo, quindi evidentemente non erano neanche rivolti a un pubblico medio americano che non capiva assolutamente una parola di quello che veniva detto, ma qui addirittura abbiamo un cantante che canta parole in Yoruba, cioè in una lingua della Nigeria, cioè quindi figuriamoci che cosa poteva significare per un americano medio che incappava in un disco del genere. Eppure questi suoni così esotici, questi ritmi misteriosi, attrassero notevolmente il pubblico e Macito si guadagnò un notevole seguito nei primi anni 40, durante gli anni della guerra. Ora, in realtà, la musica di Macito e di Mario Bauzà aveva un'altra caratteristica, e cioè, qui entriamo un po' in un dettaglio, diciamo, di linguaggio. Una delle caratteristiche africane della musica cubana che arriva a New York è il fatto che l'accompagnamento del basso, per esempio, mettiamo un ritmo del genere, ecco, questa idea di avere un riff al basso sempre uguale è una cosa caratteristica della musica afrocubana, e in particolare è un tratto che viene dalla musica africana, cioè non c'è un'armonia che si muove, non ci sono gli accordi che fanno. No, tu stai fermo lì. Il pezzo non si muove, ritmicamente ripetitivo, e sta ancorato a una linea di basso sempre uguale. Tutt'al più quello che si può fare è spostare la linea di basso, per esempio. Ok? Tu la sposti letteralmente, proprio sono andato a caso, a blocchi, e chi improvvisa sopra, chi canta, chi suona, si sposta di conseguenza, ma il pezzo è fatto di blocchi ancorati, statici, che si spostano. Ora, ai fini del nostro discorso, questo è molto importante perché stare fermi implica un discorso melodico, lo abbiamo spiegato, qualcuno forse con i capelli bianchi se lo ricorderà, nella prima delle nostre lezioni di jazz, ormai tanto tempo fa, 3 anni fa, quella dedicata a Kind of Blue, quando abbiamo spiegato come funziona il linguaggio modale, cioè il fatto che si pensa in termini melodici senza che l'armonia si muova. Ora, come dicemmo appunto 3 anni fa, abbiamo smentito il fatto che Kind of Blue di Miles Davis sia il primo disco in cui si suona con l'armonia statica e pensando solo alla melodia. Questa idea era già presente nella musica cubana ed ha un'origine africana. E in particolare c'è un pezzo che suona l'orchestra di Macito, è un pezzo di Mario Bauzà che si chiama Tangà. Notate poi le parole bantu, rumba, tango, tabù, sono tutte parole africane. Questo brano anticipa in maniera impressionante, siamo nel 1947, quindi in pieno bebop, anticipa in maniera impressionante la musica, per esempio, di Kind of Blue, quella di 10-12 anni dopo del jazz modale di Miles Davis e John Coltrane. Perché? Perché è fatta tutta di questi bassi ancorati che si spostano. Sopra sentirete Zoot Sims, molto giovane, che ci improvvisa un assolo di jazz proprio fluido col sax tenore. E questo è uno dei primi esempi di jazz modale 12 anni prima di Kind of Blue. In genere le storie del jazz non ci raccontano queste cose perché gli esperti di jazz non ascoltano la musica cubana. Andando ad ascoltare Macito invece viene fuori che c'erano già queste commistioni e il linguaggio era già molto sperimentale. Questa è una registrazione radiofonica che vi sto per far ascoltare di Tanga, 1948-49, dal Birdland, il locale di jazz. Quindi siamo in una situazione ormai già avanzata in cui un gruppo di musica cubana come quella di Macito, però come vedete con un organico jazz, ci sono i sax, le trombe, i tromboni e tutto il parterre di percussioni, con un solista jazz sopra, suonano Tanga, è un live dal Birdland. Right now, ladies and gentlemen, we take the Macito Band, we make it after Cuba, and we do with Zoot Sims on tenor, Tanga. Solo. do this, and that's the show for this morning. I hope you're particularly the past hour, the live show. In the background, Zoot Sims, Machito, the orchestra. And that's it. Until midnight, for Symphony Sid, yours truly, Bob Garrity. A very pleasant good morning. È un documento straordinario perché ci mostra proprio la fusione, quando parliamo di world music, no? La fusione tra un fraseggio jazz e la musica afro-cubana, peraltro su questo linguaggio di spostamenti statici dell'armonia che nel jazz si affermerà almeno un decennio più tardi. Questo per dirvi della portata straordinaria delle innovazioni di Machito Mario Bauzà all'interno del linguaggio musicale statunitense di quegli anni. Ma il terzo eroe della nostra storia dopo Mario Bauzà e Machito è un geniale percussionista cubano che è morto solamente a 33 anni in circostanze drammatiche, assassinato durante una rissa, Luciano Pozo González, detto Ciano come abbreviazione di Luciano, Ciano Pozo, che fu chiamato da Machito e da Mario Bauzà a L'Avana perché appunto c'erano le condizioni per fare più soldi, per lavorare. E Ciano Pozo era a L'Avana già un divo, era un percussionista, suonava la conga in particolare, come vedete in questa foto di Life, suonava la conga, suonava in vari gruppi cubani a L'Avana, era un maestro assoluto, era musicalmente analfabeta, ma vale la pena di ricordare che essere musicalmente analfabeti, cioè non leggere la musica, non ha niente a che fare con la musicalità, anzi. Questa sua musicalità straripante lo portò a concepire una serie di idee melodiche e ritmiche che ovviamente arricchirono in maniera fondamentale la musica cubana nel corso degli anni 30. Noi abbiamo delle registrazioni fatte da Ciano Pozo a Cuba, ve ne vorrei far sentire una prima straordinaria in cui lui si vede già una sua caratteristica, quella di inventarsi delle onomatopee verbali che danno un'idea del ritmo delle percussioni. Il brano che stiamo per ascoltare, che lui incide con l'orchestra di Miguelito Valdés a Cuba, orchestra Casino de la Playa, si chiama Blen Blen Blen perché è il ritmo del campanaccio. Blen Blen Blen Blen Blen Blen Blen Blen Blen Blen Blen Blen Blen. Lui canta questa cosa qui e questo pezzo poi al centro diventa proprio un pezzo di folklore cubano con tutte le percussioni. Sentirete la sua voce e questa è una sua composizione. È chiaro che l'arrangiamento orchestrale non l'ha fatto lui, ma tutta la concezione del pezzo è di Ciano Pozo. Oni que blem blem blem, un coro yare yare yare yare yare, un coro yare yare, y a mi bonquele y a mi bonquele y a mi. E il campanaccio portato nell'orchestra. Yare yare bongo quini yare yare. Todo el mundo pare en ganga, pini quini, yare yare, dinora. Yare yare, con pini, yare yare. Go gua gua, o cuelen cuelen, zarambolo, yare yare, dilo ya. Yare yare, con pini, yare yare. Salamalek, salamalek, quini quini, yare yare, dilo ya. Yare yare, con pini, yare yare. Anda yare yare, quini quini, yare yare. Todo el mundo para en ganga, quini, quini, yare, yare, dilora. Yare, yare, hongo, quini, yare, yare. Macito chiamò Ciano Pozzo a New York e gli fece registrare una serie di pezzi. Vorrei subito farvi sentire questo pezzo incredibile che si chiama Rumba and Swing, fin dal titolo. Cioè, Ciano Pozzo sembra auspicare l'unione dello swing jazzistico con la rumba. Tra l'altro avete sentito in questo disco cubano del 39, Blen Blen Blen, l'orchestra ha un suono da orchestra da ballo americana, con le trombe, i sassofoni, però il fraseggio è tutto da, tutto diciamo, bantu, ta ta tam, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, tutto molto preciso perché si deve incastrare con le percussioni, in particolare di Ciano Pozzo che ci sono sotto. Rumba and Swing è cantato in spagnolo, il testo si sente... Lo capirete facilmente, è molto divertente, come dire, non c'è swing se non c'è rumba, non c'è rumba se non c'è swing. È molto semplice, però gioca su questa idea di un matrimonio quasi forse forzato fra questi due mondi così diversi. E ancora una volta poi al centro c'è un episodio percussivo che per il pubblico cubano che stava a New York suonava familiare perché evocava le grandi tradizioni religiose afrocubane. Per gli statunitensi suonava come una cosa molto esotica e forse qui e lì perfino minacciosa. Tiene swing, no vaya a la rumba. Si no tiene swing, no c'è rumba. Si no tiene swing, no vaya a la rumba. La rumba tiene su swing y todo el mundo. sal. Si no tiene swing, no vaya la rumba. Si no tiene swing, no vaya la rumba. Ha voglia di dire se non tiene swing non baila la rumba. A un certo punto esplode proprio l'Africa, avete sentito? L'Africa bantu delle percussioni. E si capisce che la melodia che ha inventato Ciano Pozzo, se non tiene swing non baila la rumba, è una specie di richiamo africano che viene cantato in questo stile bantu, cioè della solista con il coro che risponde. È un pezzo di Africa che finisce dentro la musica registrata negli Stati Uniti. Entra il nostro quarto protagonista della nostra storia, ci avviciniamo al cuore della nostra storia, è John Burks Gillespie, detto Dizzy, un trombettista del North Carolina, che era arrivato a New York suonando con l'orchestra di Cab Calloway in particolare, e che, attenzione, aveva incontrato a New York Mario Bauzà. John Burks Gillespie, detto Dizzy, era molto interessato alla musica cubana, era molto incuriosito, e quando ha incontrato Mario Bauzà ha incontrato una persona che gli ha spiegato come funzionava la musica cubana, qual era la differenza tra il fraseggio della musica cubana e quella del jazz. La cosa lo interessò a tal punto che Gillespie riuscì a convincere Cab Calloway ad assumere Mario Bauzà dentro la sua orchestra, quindi per un certo periodo i due suonarono la tromba dentro l'orchestra di Calloway fianco a fianco, e riuscirono quindi ad approfondire in maniera concreta questi aspetti di diversità di linguaggio. Peraltro Gillespie stava già provando a sperimentare in maniera embrionale, contraddittoria, faticosa, delle fusioni tra la musica afro-cubana e il jazz. Lo aveva fatto in un primo pezzo che però adesso non ascoltiamo, che è Picking the Cabbage. Lì vediamo appunto proprio fianco a, Bauzà non si vede, c'è Gillespie lì sulla destra, ma questo insomma è un frammento dell'orchestra di Cab Calloway in cui c'era anche Bauzà. Ora però non ascoltiamo questo brano, che ve lo segnalo, magari ve lo potete poi ascoltare come compito a casa, ma è un po' meno, diciamo che il mio desiderio è farvi passare direttamente a quello che poi divenne il pezzo più famoso dell'orchestra di Dizzy Gillespie, cioè A Night in Tunisia, no? Questa no, un pezzo che voglio dire, credo che conosciate tutti, chi è qui dentro e non ha mai ascoltato A Night in Tunisia può approfittare del buio e uscire così, raso muro, e anzi togliamo la mezza sala per evitare la luce di me, per evitare imbarazzi. A parte gli scherzi, A Night in Tunisia ha il titolo nordafricano, Una notte in Tunisia, ma in realtà evoca un mondo che più che nordafricano è appunto bantu dell'Africa centro-occidentale. Fu composto già nel 1943, vale la pena di ascoltare un frammentino di una registrazione radiofonica molto rara, in questo caso la registrazione del 44, perché? Perché ci getta dritti nel cuore della nascita del bebop. Siamo nel locale che si chiamava l'Onyx, sulla 52esima strada, e in questo locale suona il primo vero gruppo bebop, quello con Dizzy Gillespie alla tromba, e loro già suonavano A Night in Tunisia. Prima di spiegare come funziona A Night in Tunisia, sentiamo questo frammentino, tanto per entrare nel suono dell'epoca. Il suono è terribile, però è come guardare un affresco molto rovinato, che però è la testimonianza di qualcosa che stava accadendo in quel momento. Thank you. Perdonerete appunto questa tempesta di rumore, ma era interessante per sentire come Gillespie nel 1944 già aveva messo a punto questo brano. Qual è la caratteristica afro-cubana di questo pezzo? È l'alternanza di un elemento, di un elemento cubano, di un elemento caraibico e più africaneggiante, con un elemento jazz statunitense. L'elemento africaneggiante caraibico è quello statico. Abbiamo imparato a capire che questa cosa, che l'armonia non si muove in questo genere di musica, è l'elemento africano. Non è del tutto statico, perché Gillespie muove due accordi. E va avanti così. La struttura del pezzo è, si dice fra musicisti, A-A-B-A, vuol dire che c'è un'idea A che poi viene ripetuta, poi c'è una parte centrale diversa e poi la ripresa della prima idea, A-A-B-A. La parte cubana è la parte A. Sentirete che c'è poi una linea di basso sempre ripetuta. La parte B invece è la parte, chiamiamola così, statunitense, la parte occidentale, quella con gli accordi. Non mi ricordo più. Cioè, con dei movimenti accordali che sono tipici della canzone americana. Quindi c'è una parte statica, cubana, una parte in movimento, americana. Queste due parti non si sovrappongono, si alternano. E questa è la prima idea di Gillespie, perché lui non sa come sovrapporle. Intanto però le alterna. La più famosa registrazione di A Night in Tunisia è quella in cui Gillespie non suona, c'è Miles Davis alla tromba, ed è quella registrata da Charlie Parker nel 46. Ostinato ha la stessa funzione di quei bassi che abbiamo sentito nei pezzi di Mario Bauzà con Macito come tanga. Per farvi capire di fronte a quali difficoltà si trova Gillespie, vediamo come lui poi a un certo punto riesce a mettere insieme le due cose. E l'incontro chiave è ovviamente tra i nostri due eroi, che vediamo in questa bella foto in un camerino, Dizzy Gillespie e Chano Pozzo. L'incontro avviene agli inizi del 1947, ovviamente favorito dal loro comune amico Mario Bauzà. Evidentemente Gillespie e Bauzà devono aver tanto parlato che a un certo punto Bauzà gli deve aver detto: guarda, è appena arrivato a New York un percussionista pazzesco che devi sentire. Gillespie lo sente e capisce forse che con l'aiuto di Chano Pozzo riesce a concretizzare un'idea che cercheremo di mettere a fuoco gradualmente, che è un'idea rivoluzionaria. Prima di capire l'idea rivoluzionaria c'è però da risolvere un problema pratico. Come mettere in un'orchestra di jazz uno che suona i tamburi a mani nude? Cosa che in un'orchestra di jazz, credetemi, non era mai stata fatta prima. C'è Kenny Clarke, il batterista dell'orchestra dell'epoca di Gillespie, che ci racconta, dice: ma io non avevo mai visto uno che suona a mani nude i tamburi. Ma è roba da pazzi. Cioè, è una cosa che non stava proprio nella tecnica, non sai come gestire. Io sono la batteria con le bacchette, faccio un certo tipo di ritmo. Non sai neanche come gestire quel suono. Vediamo cosa succede. Per capirlo prendiamo un pezzo di Dizzy Gillespie, anche questo giovanile, che Gillespie aveva inciso nel 1944 sotto gli auspici di un musicista più anziano che lo stava aiutando. Lui era completamente sconosciuto e questo musicista più anziano era Coleman Hawkins. Coleman Hawkins, che vedete sulla destra, aiuta Dizzy Gillespie a realizzare una seduta di incisione in cui suona dei suoi pezzi. Uno di questi è Wooden You, dedicato a Woody Herman, che era un altro musicista per il quale Gillespie aveva scritto della musica. Io vorrei farvi ascoltare anzitutto Wooden You. In questa versione non c'è niente di afrocubano, è una bellissima melodia, tutta un po' piegata, quasi in minore, di Gillespie, suonata da questo gruppo capitanato dal sax tenore di Coleman Hawkins e con lo stesso Gillespie alla tromba. Questa è la versione originale di Wooden You. Thank you. Crespi tra il 46 e il 47 decise di fare qualcosa che andava contro le tendenze commerciali dell'epoca, cioè dirigere una big band, in un'epoca in cui invece le big band chiudevano perché c'era una gravissima crisi economica seguita alla fine della guerra e le orchestre, oltre a un cambiamento di gusto, la gente non ne voleva più sapere delle orchestre swing. Gillespie non solo suonava bebop, che era una musica per una elite di pazzi che voleva ascoltare questa musica d'avanguardia, in più vuole fare bebop con una grande orchestra, cioè con un organico che non ha praticamente mercato, e addirittura a un certo punto decide di fare una terza cosa ancora più folle, mettere dentro la big band un musicista che suona le congas. Quindi inseguire l'idea di Macito, cioè di un'orchestra cubana con delle sonorità jazz, ma di fare proprio del jazz e in particolare del bebop mettendo dentro della musica, delle percussioni cubane. Questa è una foto dell'orchestra di Gillespie intorno al 1947, vedete Macito con lui che suona appunto le percussioni a mani nude, le congas, c'è perfino, guardate, i sassofonisti a fianco che lo guardano come dire ma questo è pazzo, sta facendo una cosa veramente, per chi non frequentava i locali cubani o non ascoltava la musica di Macito, l'abilità, la capacità musicale di Ciano Pozzo era veramente singolare. Ora noi ascoltiamo Woody New, ribattezzato in spagnolo Algo Bueno, l'orchestra di Gillespie con Ciano Pozzo alle percussioni. Il pezzo è lo stesso, l'arrangiamento è per orchestra, lo fa Walter Gil Fuller, ma Gillespie chiede a Ciano Pozzo di inserirsi dentro questa scrittura jazz e Ciano Pozzo ha un'abilità impressionante nel riuscire a equilibrare gli elementi del linguaggio cubano, cioè le note tutte a incastro, tutte uguali, con invece ammorbidendole con una specie di elasticità swing. Questo è un primo esempio di questo matrimonio apparentemente impossibile fra la sensibilità bantu dell'Africa centro-occidentale e la sensibilità, diciamo, chiamiamola così, senegalese, dello swing, della nota lunga e della nota corta. E avviene nell'orchestra di Gillespie nel 1947. Sono forza le produzioni. Qui sono più cubani. We'll be right back. Sotto i nostri occhi si sta formando una cosa nuova che nella storia della musica non era mai accaduta, l'unione della musica degli Stati Uniti e in particolare del jazz con quella cubana. Voi direte, ma è sempre musica nera? A parte che abbiamo discusso un'intera mattinata un mese fa sul discorso di musica nera, ma in realtà sono culture completamente diverse che si stanno incontrando. Ma non dimentichiamo una cosa, Ciano Pozzo, oltre a essere un geniale percussionista, fatemi rilevare un dettaglio, non so se ci sono percussionisti qui in sala, magari poi possono aggiungere o confermare un elemento, c'è una cosa che per esempio nei dischi cubani di quegli anni non c'era. Ciano Pozzo, per adattarsi allo swing, adotta questa specie di, invece di un fraseggio più rigido, un po' più morbido, che è con questo accento più chiaro. Ecco, questo ritmo poi diventerà, penso che lo riconoscerete, un ritmo proprio standard, no? Quando nel jazz arriva il conghero e accompagna lo swing con questa... Ecco, questa figurazione che oggi si sente perfino nei dischi di Raffaella Carrà è stata inventata da Ciano Pozzo. Ora, questi pezzi hanno una caratteristica, no, questa cosa la saltiamo, scusate. No, ma non è niente di, voglio dire, non, al contrario, andiamo su una cosa più sostanziale. Questi pezzi hanno una caratteristica, e cioè ci sono tutti gli accordi che abbiamo visto del jazz. Ora, in realtà Ciano Pozzo non era solo un grande percussionista, era anche un compositore, che come ho detto non ha niente a che fare con la capacità poi di scrivere le notine sul pentagramma. Comporre vuol dire creare della musica, puoi usare i mezzi più diversi. Pozzo usò il mezzo che aveva a disposizione, la voce. Tenete conto di un problema culturale non da poco. Pozzo non spiccicava una sola parola di inglese e i musicisti dell'orchestra di Gillespie non spiccicavano una sola parola di spagnolo. Cioè voi avete 15 musicisti che parlano inglese e un musicista chiave dell'orchestra che parla spagnolo e questi non si capiscono. Sottolineo questo aspetto perché non è aneddotico, è fondamentale, è proprio uno scontro culturale di due mondi diversi, un mondo ispano-cattolico e un mondo nero-anglosassone protestante. Questo scontro viene ammorbidito da cosa? Dalla musica. Ciano Pozzo scrive un pezzo come Blem Blem Blem, vi ricordate quello di prima? E sapete come insegna questo pezzo ai musicisti di Gillespie? Glielo canta. E ci facciamo raccontare come nacque Manteca, uno dei pezzi più famosi del matrimonio, diciamo così, fra Gillespie e Ciano Pozzo, dallo stesso Gillespie. Viene da un documentario in spagnolo, quindi Gillespie parla un inglese, cioè cerca di farsi capire dal suo interlocutore spagnolo, metà inglese, metà spagnolo, penso che capirete facilmente. In sostanza, per chi non comprende l'inglese, dice che Ciano Pozzo appunto non parlava l'inglese e letteralmente detta tutte le parti ai musicisti. Now this is the first time in jazz that the bass player wasn't playing boom boom boom boom boom boom boom boom. It's the first time because I hadn't heard all the bass players were talking about boom boom boom boom boom boom boom. So Chano said the bass player says, bass player, first bow. Boom doom boom bing boom bing boom. And he said, saxophone, boom, ping, boom, ping, boom, ping, me, boom, ping, boom, ping, as he talked, I don't know, trombone, boom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, we had this rhythm going. So now when I looked at these different parts on the thing that I'd written. I said, wait a minute now, we need something else. We need harmony. But it wasn't complete. It wasn't complete harmonically. It was just lots of rhythm, and it was gone. So I say to myself, you must do something to make harmony in this. So and then I wrote this bridge. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. And then we took this thing that we'd written, that I'd written, to Gil Fuller. And Gil Fuller was the arranger, and we gave it to him, and he blew it up. And he blew it up magnificently, and so that's how Manteca came about. It was similar to a nuclear weapon when it burst on the scene. They'd never seen a marriage of Cuban music and American music like that before. Che cosa dice Gillespie? C'è un punto che non ho tradotto, che è fondamentale nel nostro discorso. Penso che avrete capito tutti che Ciano Pozzo detta all'orchestra tutte le parti che devono suonare, ok? E sono parti cubane, lui dice io trascrivo. Poi dice, però ci mancava qualcosa, ci mancava l'armonia, ci mancava il movimento. Vi ricordate quella cosa, quella opposizione fra parti statiche e parti in movimento, che abbiamo visto essere la differenza fondamentale tra la musica cubana e il jazz? Gillespie è un jazzista, gli piace quello che fa Ciano Pozzo, ma dice... alla mia sensibilità ci manca qualcosa, ci manca l'armonia, ci mancano gli accordi. Allora scrive nella struttura A-A-B-A, scrive la parte B, la parte A l'ha scritta Ciano Pozzo, ecco, tutta quella parte che lui detta, che tra l'altro detta secondo un principio squisitamente africano e poi afro-cubano di incastro delle parti, il basso, i sax, poppa, poppa, poppa, il trombone, pa, pa, pa, le trombe che fanno gli accordi, questo è come nei tamburi africani dell'Africa centro-occidentale, bantu, che si incastrano uno sopra l'altro. Ciano Pozzo ha quella sensibilità e chiede all'orchestra di fare quella cosa lì, dei tamburi ma con l'orchestra. Però Gillespie dice tutto questo è fermo, è statico, non gli interessa la stasi. E allora ecco che questa è la parte A e poi a un certo punto lui dice però c'è bisogno degli armonici, dell'armonia. Ci mette degli accordi e una melodia, quindi fa un po' come nei Night in Tunisia. La parte A ritmica, la parte B melodica e jazz. Sentiamo per intero, nei 3 minuti, questa versione di A Night in Tunisia, di Manteca. Aggiungiamo che lo stesso Gillespie ricorda, fu l'arrangiatore Gil Fuller a prendere tutti questi appunti e a mettere insieme una partitura che è quella che adesso ascoltiamo. Thank you. parola sul titolo, manteca, cioè burro, perché nel gergo dei musicisti di jazz big butter voleva anche dire una cosa saporita, figa, divertente, e quindi lui usa il gergo jazzistico traducendolo in spagnolo, per questo poi gridano manteca, come se dicessero strafigo, bellissimo, eccetera. Quando arrivò a New York, ai primi del 47, Chano Pozzo registrò anche una serie di dischi che non, fino a poco tempo fa erano di difficilissima reperibilità. Oggi ci sono dei CD che raccolgono la musica di Macito e di Chano Pozzo, di Miguelito Valdés, di tutti questi grandi musicisti, e di Mario Bausà, e sono accessibili anche questi dischi di Chano Pozzo, in cui Pozzo registra 3-4 dischi rivolti esclusivamente al mercato degli immigrati cubani negli Stati Uniti, in particolare a New York. Sono dischi che potremmo definire oggi di etnomusicologia, cioè in cui lui suona la musica Yoruba, la musica della santeria cubana, musica dei riti segreti, perché Chano Pozzo era affiliato a delle logge segrete legate appunto ai riti religiosi afrocubani, che non sono notoriamente accessibili alle persone, ma bisogna essere degli iniziati per poter entrare nel circolo appunto segreto iniziatico della religione della santeria. Chano Pozzo era un iniziato, porta questa cultura a New York e registra dei brani musicali di pura musica afrocubana, quindi che, come posso dire, folclorici, che non hanno niente a che fare col jazz, con la musica da ballo cubana, con la sala da ballo, niente, è pura musica segreta dei riti lucumì della santeria afrocubana, e sicuramente Gillespie conosceva alcuni di questi brani. Questa idea di suonare pezzi di musica lucumì e afrocubana dentro un pezzo di jazz deve quindi essere balenata a Gillespie nel momento in cui comincia a mettere a fuoco quell'idea di cui dicevamo prima. Che senso ha mettere insieme la musica cubana e il jazz? Certo, è una sfida musicale, un modo per unire due mondi, ma c'è forse qualcosa di più. E questo qualcosa di più ha a che fare con un pezzo che lui commissiona al giovane compositore George Russell, qui in una foto di molti anni dopo, sulla sinistra, e il pezzo si chiama Cubano B, Cubano Bop. Come funziona? Questo è un pezzo scritto a sei mani, è scritto a sei mani da George Russell, da Dizzy Gillespie e da Chano Pozzo. Il pezzo funziona in questo modo: fu rappresentato per la prima volta alla Carnegie Hall il 29 settembre 1947. Noi adesso ascolteremo quella esecuzione. George Russell scrive un'introduzione molto complessa da musica contemporanea. Dopodiché Gillespie, che ha, l'avete capito, un disperato bisogno di melodia, di accordi, di movimento, si inventa un tema che poi Russell arrangia, per cui noi abbiamo una parte, come posso dire, più concettosa, più concettuale, d'avanguardia, scritta da questo giovane compositore. Poi abbiamo la parte melodica scritta da Gillespie. In più ci sono, come sentirete, degli episodi di pura percussione concepiti da Chano Pozzo. Per ora mi fermo a questa descrizione. Adesso ci sediamo comodamente la sera del 29 settembre 1947 alla Carnegie Hall, abbiamo la registrazione e quindi possiamo seguire passo passo quello che succede nella prima esecuzione assoluta di questo strano pezzo, Cubano B, Cubano Bop. Aggiungo che l'inizio del brano consiste in un duetto tra le percussioni di Chano Pozzo e la batteria di Joe Harris. Anche questo è un gesto senza precedenti. L'idea di mettere insieme uno strumento occidentale come la batteria, uno strumento africano come le congas, era del tutto nuova. E i batteristi jazz si trovarono, come vi dicevo prima, davanti alla sfida di riuscire a amalgamarsi con uno strumento. Voi direte, ma sono sempre percussioni? No, non sono la stessa cosa. Uno si suona con le bacchette, c'ha tanti strumenti, è un insieme di strumenti, tra l'altro anche con i piatti che non c'entrano niente. Quell'altro suona un tamburo a clessidra con le mani che ha altri timbri e altre possibilità, con un altro tipo di tradizione dietro. Due mondi diversi che si incontrano. Questo è Cubano B, Cubano Bop, lo analizziamo passo passo mentre lo ascoltiamo. Percussione. È una sezione ripetitiva della musica da ballo cubano, cioè la tromba da sola con le percussioni, una cosa senza precedenti. Thank you. nel settembre del 47 quindi fu presentato questo pezzo visionario, ma non era tutto. C'era ancora qualcosa, perché il 30 dicembre del 47 andarono in studio e registrarono Cubano B, Cubano Bop su due facciate di un 78 giri, era troppo lungo per stare dentro un 78 giri. E rispetto alla versione, adesso l'ascolteremo, rispetto alla versione della Carnegie Hall c'è una grossa novità, una novità sconvolgente. Terminata la facciata A, sulla facciata B c'è una vera e propria scena di santeria cubana, cioè Ciano Pozzo costringe l'orchestra di Gillespie a fare un rito religioso mescolando lingua yorubà e onomatopee inventate dallo stesso Pozzo. Qualcosa di inaudito per il pubblico americano, qualcosa di inaudito per il jazz. Qui sta venendo meglio a fuoco, mettiamo meglio a fuoco l'idea che sta avendo Gillespie: fare una grande sintesi di musica contemporanea, grazie alla penna di George Russell, jazz e di vero e proprio folklore afrocubano religioso strettamente legato alle radici africane. Ascoltiamolo e poi ci facciamo una riflessione. Kenny Clarke la batteria. Así para la mala, yeah, oh, oh, oh, oh. Ci comincia a essere chiaro il significato di questa musica. Gillespie ha individuato un concetto ideologico fondamentale. I neri statunitensi sono nel 1947 il gradino più basso della società, anche se tra di loro ci sono personaggi geniali come Dizzy Gillespie o George Russell o l'immigrato cubano Chano Pozzo. Forse i neri statunitensi hanno però una cultura così importante che non è solo quella del jazz, che è una novità assoluta nella cultura occidentale, ma hanno una visione culturale forse ancora più ampia. Forse hanno, come posso dire, lo stesso ceppo culturale con altri neri che abitano e vivono e sono sviluppati nelle vicinanze, per esempio i cubani, che erano considerati un mondo completamente a parte, che non può neanche dialogare con la lingua, l'inglese, lo spagnolo, figuriamoci culturalmente, le congas con la batteria o la tromba che improvvisa. Forse invece c'è un modo più ampio di vedere la cultura nera statunitense, che non è più solo statunitense, ma è black, diciamo così, è nera in un senso quasi nazionalistico, molto più ampio. Allora questo ha un significato anche culturale, perché vuol dire che la mia cultura è più grande di quella degli Stati Uniti, abbraccia mondi diversi, talmente diversi che individuo perfino una origine africana che accomuna Dizzy Gillespie e Chano Pozzo. Per voi questo discorso sarà ovvio, nel 1947 non lo era affatto. Due, questo ha un significato in senso ampio politico fondamentale, vuol dire che io nero statunitense, posso lottare per i miei diritti culturali, politici, civili e divento più forte se mi alleo con altri neri nel mondo. Questo è il pensiero di Malcolm X, 15 anni prima. C'è l'idea che i neri non devono pensare solo al loro orticello statunitense, ma fanno parte di una cultura globale più ampia. Questa cultura globale ha una capacità di fondersi con altre culture, con altri linguaggi, mettendo insieme la musica contemporanea portata dal nero George Russell, il jazz, la musica afro-cubana, le forme religiose verbali, vocali, strumentali e ritmiche dell'Africa, trapiantate e trasformatesi a Cuba, tutte in un unico grande scenario. Gillespie ha questa visione che è culturale e politica grandiosa e la persegue con lucida determinazione. Questo fa di Gillespie uno dei musicisti più geniali e rivoluzionari del Novecento. Salto un pezzetto in cui non vi faccio ascoltare, diciamo, il brano afrocubano, ma voglio raccontarvi come un sogno possa in qualche modo essere spezzato. L'orchestra di Gillespie suonò alla Salle Pleyel a Parigi il 28 e il 29 febbraio del 48, fecero un tour europeo che non toccò l'Italia, suonarono in Scandinavia, in Danimarca, in Svezia, suonarono in Francia. Questa è una foto presa, guardate tra parentesi, l'età media del pubblico. A Parigi tra il 28 e il 29 febbraio del 48 abbiamo la registrazione e abbiamo anche la registrazione del 29 e abbiamo una recensione del 28. Noi sappiamo che il 28 suonarono Cubano B, Cubano Bop per intero. Poi il 29 successe una cosa strana. Il pubblico non aveva accolto bene Cubano B, Cubano Bop. Io ora non ve lo faccio vedere, ascoltare tutto, ma vi posso dire questo, che quando arriva la parte più complessa, dopo la parte di Santeria, l'orchestra non suona, smettono lì. Se sentite il disco, lo trovate anche su YouTube, c'è la scena di Santeria, c'è un refuso, scena di Santeria, la parte del coro, questa cosa deve aver completamente spiazzato il pubblico, che protesta il giorno prima e il giorno dopo Gillespie decide di fermarsi lì, di non aggiungere il finale più dissonante alla George Russell e di fermarsi con questa cosa un po' esotica della scena di Santeria. Qualche mese dopo, quando suoneranno a Los Angeles, abbiamo la registrazione del pezzo, decideranno di fermarsi nello stesso punto. Non c'è la sintesi globale, il pubblico la rifiuta. È troppo avanti, è troppo oltre. La rifiuta addirittura il pubblico europeo, che si pensava più, come dire, più aperto, no? E invece no. E Gillespie, che alla fine del 48, a metà del 48, ha l'orchestra in una serie di difficoltà economiche, decide di non andare contro il pubblico. È una specie di sogno che si spezza e quella visione rivoluzionaria è destinata a rimanere incompiuta. Di lì a poco Gillespie sarà costretto a sciogliere l'orchestra e a suonare rhythm and blues anche da quattro soldi, che è la parte più bassa della sua carriera tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50, per poi gradualmente riprendersi nel corso degli anni 50, senza però più riuscire a compiutamente portare avanti il grande disegno che aveva colto in epoca giovanile, in momento giusto. D'altra parte, di lì a qualche mese, qui siamo nel febbraio del 48, quindi pensate, i parigini, i danesi, gli svedesi vedono Ciano Pozzo suonare, non si era mai visto una cosa del genere in Europa, mai, un percussionista che suona a mani nude una conga, vedono Ciano Pozzo suonare, ma Ciano Pozzo nel dicembre del 48 viene assassinato nel corso di una rissa. Noi potremmo fermarci qui, ma voglio chiudere con un'altra piccola chicca. Tutta la musica che abbiamo ascoltato fin qui è una musica molto ritmica, ma Ciano Pozzo e Gillespie si ritrovavano anche su un altro aspetto. E quest'altro aspetto è squisitamente lirico, melodico, ed è uno dei punti più alti della collaborazione tra Pozzo e Gillespie, è un pezzo che ha come titolo, come blen blen blen, un'onomatopea, tintindeo, che non vuol dire niente, è un ritmo. Tintindeo fu registrato una prima volta da Ciano Pozzo con dei musicisti di Gillespie, ma senza Gillespie. L'esecuzione fu arrangiata dal fido Gil Fuller. Qui vedete una foto, c'è anche Gillespie, ma il disco è senza Gillespie e con James Moody al sax tenore. Dietro vedete Ciano Pozzo. Man mano che ascoltiamo Tintindeo, che è una melodia meravigliosa, sentirete come Gil Fuller cerca con discreto successo di mettere insieme l'elemento cubano ripetitivo e genialmente melodico di Ciano Pozzo con le armonie bop di James Moody. yo te canto esta rumba mía. Oye mi negra, que yo te canto esta rumba mía. Esta es la rumba, oh tintindeo. Esta es la rumba, oh tintindeo. Ororo tin tin tin tin deo. Ororo tin tin tin tin deo. Oh tintindeo. Oh tintindeo. Va avanti con una parte percussiva. Quello che adesso con cui concludiamo è l'omaggio che Gillespie ha pagato al suo amico Ciano Pozzo poi per tutta la vita, perché Gillespie ha continuato a suonare Tintindeo ma in una sua versione che adesso ascoltiamo. E la versione è abbastanza diversa da questo frammento che abbiamo sentito, vi chiedo scusa, facciamo tardi ma è l'ultimo ascolto, che abbiamo ascoltato fin qui. È molto diversa perché Gillespie ci aggiunge una linea di basso e ci aggiunge degli accordi alla maniera sua, ma stavolta non è alternanza come in Manteca, è veramente fusione. Gillespie sente nel tema di Ciano Pozzo qualcosa di personale che gli consente di aggiungere dei colori, di un accompagnamento armonico che si integra a meraviglia con la melodia di Ciano Pozzo. Una delle esecuzioni più belle è ancora sul luogo del delitto, in quella Parigi che aveva rifiutato Cubano B, Cubano Bop. Abbiamo un disco del 9 febbraio del 53, c'è anche un frammento di fotografia nella copertina del disco, Sal Playel, e adesso l'ascoltiamo e vi farò vedere come si mescolano i due mondi alla perfezione. Thank you ladies and gentlemen, we'd now like to play a number that has become quite popular in Europe. It's tune titled Tintindeo. Questo è un altro percussionista, Ciano Pozzo, è morto da 5 anni. Gillespie aggiunge questo basso. Thank you. Cassoni. Sfumiamo per cortesia. Grazie. Poi il resto dell'esecuzione continua sull'arrangiamento così che avete visto, ma qui vedete perfettamente la fusione della melodia, dell'ispirazione melodica di Ciano Pozzo con le armonie di Gillespie. L'elemento statico, ritmico, cubano, africano si fonde con quello occidentale, armonico, del movimento. Dizzy Gillespie in questo modo si porta con sé dentro, diciamo così, un amico che gli ha cambiato in un certo senso la vita, anche se non è riuscito a portare a compimento questa visione musicale che oggi è diventata normale, ma grazie a Mario Bauzà, Miguelito Valdés, Macito e soprattutto all'incontro fra Ciano Pozzo e Dizzy Gillespie, la musica oggi è completamente diversa. Grazie. Grazie.